La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 56. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L'articolo 56 riguarda l'elezione della Camera dei Deputati. Accanto ad esso, gli articoli 57 e 58 riguarderanno quella del Senato. Quindi potremmo dire che questi tre articoli pongono il sistema elettorale del Parlamento. In Assemblea Costituente si discusse a lungo di legge elettorale, tuttavia non si raggiunse l'accordo per sancire una regola in Costituzione. La nostra Costituzione, potremmo dire, profuma di proporzionalità, in quanto cerca di rappresentare differenziatamente tutti gli interessi, ma non pone in nessun punto la regola del sistema proporzionale. Quindi, per Costituzione, la legge elettorale può essere maggioritaria o proporzionale. La legge elettorale, sappiamo bene, è un tema di grande attualità. La legge elettorale è stata dichiarata due volte incostituzionale dalla Corte Costituzionale e oggi ci troviamo, finalmente, in prossimità di elezioni con una nuova legge elettorale. Tuttavia è importante ricordare che la Costituzione non impone una tipologia di legge elettorale, ma la Costituzione impone delle regole che poi sono state ribadite dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale cosa ci ha detto nelle due sentenze contro il cosiddetto Porcellum e il cosiddetto Italicum? Ci ha detto che la legge elettorale non deve creare distorsioni della rappresentatività e quindi non devono esserci premi di maggioranza eccessivi, altrimenti si viola l'eguaglianza e la parità del voto, e allo stesso tempo la legge elettorale deve consentire una identificabilità dei candidati e quindi deve avere una forma di preferenza, una forma di scelta affinché il cittadino possa eleggere e identificare il proprio deputato e il proprio senatore. Al di là di queste regole generali, per il resto la Costituzione non impone un sistema elettorale, quindi negli anni abbiamo visto in Italia affiancarsi prima dei sistemi proporzionali dal 1946 fino al 1992, poi un sistema prevalentemente maggioritario, il sistema del cosiddetto Mattarellum dal 1993 in poi, ancora con la legge del 2005, la legge Calderoli, il cosiddetto Porcellum, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, e oggi con la legge del 2017, il cosiddetto Rosatellum, abbiamo una legge ancora una volta mista, una parte maggioritaria e la parte più ampia proporzionale. Tornando invece all'articolo 56, l'articolo 56 ci dice cose molto semplici sull'elezione della Camera. Innanzitutto che viene eletta a suffragio universale e diretto, quindi il suffragio universale come regola base per la rappresentatività. Sappiamo che invece fino al 1946 in Italia non c'era suffragio universale, ma c'era il suffragio solo maschile e ancor prima, fino al 1913, la votazione era limitata, quindi il suffragio non era universale. E poi l'articolo 56 identifica il numero dei deputati in 630, specificando che 12 di essi sono eletti nella circoscrizione estero e ponendo poi una regola di età, cioè che si può essere eletti deputati quando si sono compiuti i 25 anni di età.